ma comunque ringrazio di cuore l'amico Celata Ballanti di questo invito, l'Università di Genova che mi ospita nella persona dei suoi rappresentanti, del Dipartimento e quant'altro, che mi dà l'occasione ancora una volta appunto di parlare di un argomento sì storico, di storia della filosofia o della cultura medievale, ma come avete tutti quanti capito anche dalle parole dette poco fa da professor Celata Ballanti, direi di interesse eterno, insomma, quindi anche presente, no? Dunque, Meister Eckhart era, come tutti sanno, un domenicano tedesco del contemporaneo di Dante e svolse per buona parte della sua vita un ruolo magisteriale. Non a caso è diventato magister, no? Eckhart. Ruolo magisteriale, evidentemente anche i contemporanei sentirono molto, molto forte, prova ne sia appunto questo soprannome, poi è diventato quasi un nome proprio, magister. Essendo, noi diremmo professore, no? Professore di teologia e nel luogo più eminente della cultura medievale, cioè l'Università di Parigi, aveva come suo dovere ufficiale quello di leggere la lezione, come la parola dice, era lectio, no? Si leggeva e poi ovviamente si commentava la Sacra Scrittura. Questo è stato, diciamo così, il suo lavoro, forse non principale, ma molto importante, l'ha svolto per più anni, accanto, direi in parallelo, a quell'opera di predicatore, predicatore in lingua volgare, a cui, come avrò occasione di dire, per altro verso la sua fama è stata prevalentemente dovuta. Allora, Meister Eckhart ha commentato la Bibbia, ha letto e commentato la Bibbia, come facevano, dovevano fare, direi, tutti i maestri dell'Università Medievale della Teologia. Quindi, come credo tutti quanti sapete, noi abbiamo commenti biblici, quelli che ci sono rimasti ovviamente, anche poi c'è un problema della perdita dei testi, di tutti i grandi intellettuali, filosofi del Medioevo. Sappiamo che Eckhart aveva concepito un progetto, sembra veramente enorme, quello cioè di scrivere, quindi probabilmente fare anche a lezione, ma poi scrivere e redigere un commento all'intera Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, che è un'opera, come capite, molto impegnativa, ma anche proprio da un punto di vista fisico, no? di quantità di pagine. Questo commento all'intera scrittura, e lui appunto ci dice più volte di avere intenzione di fare, non sappiamo se l'abbia effettivamente svolto tutto quanto. Certamente ne deve aver svolto, se non tutto quanto, una discreta parte. Perché? Vengo un attimino alla storia della trasmissione di questi testi. Perché l'opera di Meister Eckhart, come sapete, subì una censura, no? Questo grande maestro dell'ordine domenicano, che era l'ordine, diciamo, difensore dell'ortodossia per definizione, subì un processo perché alcune sue proposizioni furono considerate eretiche. Vi risparmio la storia del processo, che è interessantissima, ma altrimenti non svolgerò il tema che mi sono prefissato. È andato a finire che il Meister Eckhart ha subito una censura, cioè una bolla di condanna papale. Il papato si trovava allora in Avignone e si può anche aggiungere che non era gestito, diciamo, dalle figure più belle della storia del papato stesso, che visto che sono quei papi che Dante chiama lupi rapaci, no? Eccetera, subì una condanna. La condanna non è della persona, sottolineo, va bene? Che al momento della condanna era già morto, è morta, la condanna non è della persona, ma è di alcune proposizioni, di un certo numero di proposizioni che vengono considerate eretiche o quantomeno sospette di eresia. Allora, la condanna ha avuto l'effetto di, diciamo, non annullare Provanesia, e siamo qui a parlarne, ma di cancellare quasi del tutto la memoria delle opere di Eckhart per molti secoli. Quindi non ci meraviglia il fatto che noi oggi abbiamo a disposizione soltanto alcuni dei suoi commenti biblici, soltanto alcuni. Lo possiamo dire per il fatto che molto spesso in quelli che noi abbiamo Maestro Eckhart fa riferimento ad altri testi. E ci dice, come ho già detto nel commento alla lettera ai Romani, eccetera, ma noi la lettera ai Romani non ce l'abbiamo. Come ho già detto qui, come ho già detto là, lo ripete spesso, quindi questi li doveva avere redatti, no? Anche se, ripeto, non sappiamo se ce l'abbia fatta a redigere un commento all'intera Bibbia, ma sicuramente più di quello di cui noi disponiamo. In questo volume che è uscito pochi mesi fa, per esempio, c'è il frammento di un commento al Cantico dei Cantici, ci sono solo due o tre pagine, quelle ci sono rimaste, ma evidentemente lui il commento al Cantico dei Cantici l'aveva fatto. La storia del questi testi ci sono arrivati perché evidentemente qualcuno li aveva salvati. Questo qualcuno non è un qualcuno da poco. Per esempio, il nome più importante è Niccolò Cusano. Niccolò Cusano, noi abbiamo la possibilità di leggere questi commenti biblici grazie soprattutto, non esclusivamente, ma soprattutto al fatto che il Cusano ce li aveva tenuti nella sua biblioteca a Cues, nel suo villaggio natale sulla Mosella. Ci sono arrivati anche con le sue annotazioni marginali, molto carine, a penna, miste di tedesco e di latino, come facevano, bene notandum, c'erano cose di questo genere. E lì, proprio lì, sono stati ritrovati, sono abituato a dire nel secolo scorso, ma invece ormai bisogna dire nell'Ottocento, perché sono stati ritrovati verso la fine dell'Ottocento da un grande erudito che era domenicano e Maestro Eckhart, Denifle, il quale li ha pubblicati. Quindi per secoli, per diversi secoli, dal 300 all'800, anzi si potrebbe dire al 900, i commenti biblici di Eckhart non sono stati noti, non sono stati noti. Neanche appunto questi che noi abbiamo, fermo restando che ce ne dovrebbero essere altri, non so se qualcos'altro verrà scoperto in seguito, eccetera. Allora, noi disponiamo di alcuni commenti a libri del Vecchio Testamento che sono qui presenti, cioè Genesi, commenti alla Genesi ce ne sono due, il secondo si chiama il libro delle parabole della Genesi, ci abbiamo Esodo, commenti all'Esodo, poi abbiamo Sapienza, Ecclesiastico, e poi appunto questo frammento del Cantico dei Cantici. Abbiamo anche, per fortuna, un commento a un testo del Nuovo Testamento, cioè il testo, come dire, più caro a Maestro Eckhart e più caro in genere ai filosofi, sicuramente più caro a quelli che chiamiamo mistici, cioè il Vangelo di Giovanni. Abbiamo il commento al Vangelo di Giovanni. Ecco, disponiamo appunto di questi testi. Quando diventarono noti, appunto tra fine 800 e prima 900, gli studiosi si posero appunto quei problemi cui già accennava poco fa l'amico Celata Ballanti. Perché? Perché era abbastanza noto, almeno dai tempi dell'idealismo tedesco, insomma, no, dai tempi di Fichte, di von Baader, di Hegel, era abbastanza noto lo Eckhart delle prediche, lo Eckhart dei sermoni, eh? Lo Eckhart che parla nella sua lingua, in tedesco, è ovvio, non l'ho detto, ma i commenti alla Bibbia sono in latino, perché essendo testi rivolti all'università, agli studiosi, bene, sono in latino. Quindi è lo Eckhart latino. Eh? Mentre invece c'è un Eckhart tedesco, che è l'Eckhart soprattutto dei sermoni o anche di altre opere, alcune opere che non sono sermoni, ma insomma lo Eckhart tedesco, che è quello, come dire, più propriamente, tra virgolette, mistico. Mistico. Invece nei commenti alla Bibbia ci appare un Eckhart che è anche, se non, alcuni diranno soprattutto, ora cerchiamo di vedere un attimo, un filosofo del suo tempo, un professore dell'università del suo tempo e quindi uno scolastico, no? Con la S maiuscola. Non a caso non solo ha tenuto la cattedra che è stata del suo, come lui sempre dice, venerabile confratello Tommaso d'Aquino, ma anche lo cita spessissimo. Beh, tra le autoritates più citate nei suoi commenti biblici, certamente un posto di rilievo ce l'ha Tommaso d'Aquino. E allora qui qualcuno si chiese, e ce lo possiamo chiedere anche noi, ma chi è questo teologo e filosofo medievale che per un certo verso svolge il suo ruolo di commentatore della Bibbia, di lettore, no? Diciamolo proprio nel bel modo dei medievali, di lettore della Bibbia, in una maniera sostanzialmente scolastica, appunto, no? Ora un attimo vediamo. Sostanzialmente scolastica, e poi invece quel predicatore che enuncia al popolo, non ai dotti, agli studenti, ai professori della Sorbona o degli studi di Colonia o comunque dove lui ha insegnato, ma insegna, predica al popolo delle affermazioni, delle tesi tanto radicali, tanto sconvolgenti, certamente anche tanto profonde, da suscitare per la Chiesa del suo tempo il sospetto di eresia e magari invece per noi oggi un grande entusiasmo, perché appunto ci troviamo, questa almeno è la mia opinione, di fronte a una parola estremamente profonda, inaudita, che profondamente ci colpisce e ci chiama. Com'è che si concilia appunto lo Eckhart, commentatore della Bibbia, con lo Eckhart e delle sue tesi così, diciamo pure, ripeto, inaudite nell'ambito spirituale? Già, perché non è solo un problema, diciamo così, dei commentatori o dei lettori oggi. Se io leggo l'autore, cioè Eckhart, ci trovo da una parte delle affermazioni che sono quelle che poteva fare un domenicano tedesco dei primi del 300, insomma, un uomo chiaramente medievale, il quale è convinto che la Bibbia sia la parola di Dio. Direi pro ut verba sonant, cioè alla lettera, no? Questa è l'opinione, come appunto poteva essere. Cito sempre Dante perché non solo è assolutamente contemporaneo, no? Ma perché è una persona abbastanza nota, no? La Bibbia è la parola di Dio, l'atteggiamento che ha l'uomo del Medioevo come Eckhart probabilmente è molto diverso da quello che ha lo studioso, il lettore contemporaneo, ma per loro invece no, era così, no? E Eckhart dice, lo dice spesso, una delle frasi più importanti, più significative in questo senso è che dice: io credo alla Bibbia più che a me stesso, no? Mi sembrerebbe stare sulla linea, direi, di un fideismo quasi, non so, forse fondamentalista sotto un certo aspetto. Questo per un verso, ma anche dall'altro, lo stesso autore, per esempio, pensa che se anche non avessimo la scrittura, la sacra scrittura, no? Se anche non avessimo la Bibbia, ne potremmo fare tranquillamente a meno, perché abbiamo la creatura e ogni creatura è piena di Dio ed è un libro. L'ho citato alla lettera, è in uno dei suoi sermoni più belli, che si chiama Quasi Stella Matutina, Quasi Stella Matutina, che prende lo spunto dal versetto biblico Quasi Stella Matutina, uno dei sermoni in cui si spinge effettivamente molto avanti nella sua teologia negativa, tanto da esplicitamente negare a Dio la caratteristica dell'essere. Chi chiama Dio essere è come se chiamasse bianco il nero. Un'affermazione abbastanza rigorosa, no? Bene, in quella stessa predica, appunto, Eckhart esprime la fiducia piena nella creatura, cioè nel mondo, no? Nell'uomo. Quasi prefigurando, lo hanno scritto degli studiosi insigni, prefigurando quella, diciamo, duplicità, liber nature, liber scripture, la natura, il libro della natura e il libro che è la Bibbia, che voi conoscete appunto per la discussione, ad esempio, ai tempi di Galileo, no? Galileo, il quale anche lui stima e accetta la Bibbia, però pensa che il libro, il liber nature, il libro della natura sia altrettanto valido e, casomai, nei casi dubbi, forse più sicuro, più sicuro, perché la Bibbia è suscettibile di molte interpretazioni, molte diverse interpretazioni, mentre la natura, per chi la sa leggere con lo strumento chiave che è il linguaggio della matematica, è inequivoca. Bene, per certi versi si può dire anche per Meister Eckhart. Noi, sta parlando di domenicano medievale, noi potremmo fare a meno della Bibbia. E questo lo dice spesso, la sua fiducia, e ora appunto ci addentriamo un pochino nel tema, la sua fiducia nella ragione, sostanzialmente, nella ragione in senso forte, nella ragione che è il logos, la sua fiducia nella ragione è tanto ampia da fargli dire che in fondo i grandi maestri pagani, cioè i filosofi greci, no? Hanno conosciuto la verità prima della rivelazione cristiana, che è, se ci pensate bene, una tesi abbastanza notevole, magari forse per noi non lo è, ma insomma, piazzata nel cuore del Medioevo, insomma, anzi smentisce per certi versi molti luoghi comuni sul Medioevo stesso che continuano a circolare, eccetera. Quando si sente l'aggettivo medievale come sinonimo di vecchio e sciocco, insomma, diceva un nazista, verrebbe voglia di mettere mano alla pistola, ma noi non lo faremo. Scusate, era soltanto. Allora dicevo, Meister Eckhart pensa che per un verso la Bibbia è la parola di Dio, bene? A cui bisogna credere, non voglio dire ciecamente questo avverbio non c'è mai, ma completamente credere perché è la parola di Dio, ma anche sembrerebbe contrapposto, ma anche se non vi fosse Bibbia ne potremmo fare a meno, perché basta, come dire, guardare la creatura nel duplice senso, che significa guardare il mondo, ma ancora di più guardare in noi stessi, perché poi questo è il punto che casomai può, come dire, servire da conciliazione degli eventuali opposti. È guardando in noi stessi che apparirà quel che è possibile di vero. Bene, quindi quando dice la creatura non sta pensando soltanto alle creature, alberi, animali, eccetera, eccetera, ma ovviamente pensa prima di tutto all'uomo in sé e quindi a quello studio che si fa, come diceva quel filosofo pagano che conobbe la verità prima della fede cristiana, è una citazione, sta parlando di Eraclito, ho indagato me stesso, no? Se ricordate uno dei frammenti era riferito, ho indagato me stesso. Allora, c'è evidentemente, come dire, sembra che ci siano due registri, no? La scrittura per un verso e dall'altra no, non c'è bisogno di scrittura, si fa in un altro modo. Innanzitutto, diciamo, siccome io credo che Meister Eckhart da una parte non dicesse il falso e dall'altra il vero, se non credo che fosse proprio pienamente convinto della possibilità di tenere insieme queste due cose, alla prima possono sembrare contraddittorie. Innanzitutto dobbiamo tenere presente che cosa? Che la scrittura di cui noi parliamo, la scrittura da sempre, cioè fin da quando ci sono i primi interpreti cristiani, e non solo, anche quelli ebrei, la scrittura è un libro che è suscettibile di molteplici spiegazioni. Questo non l'ha certo scoperto Meister Eckhart, però Meister Eckhart, devo dire, lo esplicita più volte, il fatto che non solo, come afferma un celebre aforisma del Papa Gregorio Magno, la divina scrittura, divina eloquia, crescunt cum legentibus, cioè crescono insieme a quelli che la leggono, no? Cioè quanto più tu la interpelli, tanto più essa ti dà, no? Divina eloquia cum legente crede, comunque cum legentibus crescunt. Quindi ci sono diversi livelli di comprensione della Sacra Scrittura. Una specie di promemoria in versi di diverse attribuzioni suonava per i medievali che i quattro sensi della scrittura, no, la scrittura ha almeno quattro sensi, quello letterale, quello anagogico, quello morale e quello allegorico. Il senso letterale, docet gesta, littera, gesta, docet. Il senso letterale dice come sono andate le cose. Poi c'è un senso morale, moralis quid agas, il senso morale che dice come devi comportarti. Poi c'è un senso allegorico, quid credas allegoria. L'allegoria ti dice cosa devi credere. E infine, ma l'ordine può essere anche variato, eh? C'è un senso anagogico. Anagogico vuol dire che porta in alto, eh? È un termine di conio greco, ana. Quotendas anagogia. L'anagogia ti dice dove devi mirare, dove, verso dove ti devi muovere. Quindi i quattro sensi della scrittura, no? Tradizionalmente, quindi, i quattro sensi della scrittura, e questo anche Eckhart non ha dubbi. Quando, vi faccio un esempio, quando legge nel libro della Genesi il serpente parla ad Eva, no? Beh, insomma, lui stesso dice, ma i serpenti non parlano, i serpenti non parlano alle donne, non è che il senso letterale, no? Quindi va inteso in un senso allegorico, in un senso parabolico, cioè noi dobbiamo capire qual è il senso di questo, ovviamente, a tutti. E così via dicendo. Ma poi mi preme sottolineare che questa molteplicità di significati della scrittura, questa polisemia, no, della scrittura, lui non solo la prende in considerazione, ma direi la porta a un limite che non so se la mia competenza non mi permette di dire quanti altri suoi contemporanei lo pensassero, insomma, comunque lo pensava lui. Che è questo? Che è questo? Lui pensa, Meister Eckhart pensa che noi dobbiamo leggere e interpretare la scrittura con un metodo che è il metodo delle molteplici spiegazioni. Qualcuno di voi riconoscerà la citazione dalla filosofia classica. Era il metodo con cui Epicuro pensava che si dovessero spiegare i fenomeni della natura più straordinari e sconvolgenti, quelli cioè che danno problema anche all'uomo, che danno i problemi di carattere filosofico, insomma, i problemi per esempio del male, no? Tipo terremoti, come mai il terremoto eccetera, qua è sconvolgente, può far pensare alla punizione divina, eccetera, eccetera. Questo dice, ma solo per gli antichi, ma è vero, io ricordo che quando ci fu il famoso tsunami, poi è diventato anche citato da Grillo, cioè, no, ma quello vero che morivano, ci fu il allora presidente della Repubblica Italiana che dichiarò che era una punizione divina. No, perché non mi ha vietato pensarlo. Non è assolutamente vietato. Allora, di fronte a questi fenomeni, che sono poi quelli di più difficile comprensione, no? Perché, ora non lo so se i nostri geologi sanno bene come si producono e perché i terremoti, ma mi pare di capire, insomma, proprio così chiara non sia nemmeno oggi, ma in ogni modo. Allora, come ragionava il filosofo Epicuro? Ragionava pensando che si dovesse ragionevolmente, scusate il gioco di parole, adottare un modo propos molteplice, cioè pensare che la causa può essere o questa o quest'altra, o anche una terza, o anche una quarta, cioè magari non 100.000, ma l'esempio l'ho preso di proposito, no? Dei terremoti, possono derivare da fenomeni che avvengono per questo motivo all'interno della crosta terrestre. Tutte spiegazioni, ovviamente se si parla per Epicuro, rigorosamente naturali, no? Che non fanno intervenire gli dèi pro o contro, spiegazioni secondo la logica, appunto, della conoscenza delle cose, senza far intervenire il divino, ma senza neanche la pretesa di avere proprio quella giusta, no? Ammettendo la possibilità che tra 3, 4, insomma, numero ristretto di queste spiegazioni, ecco, si possa trovare quella valida, quella veritiera. Mutatis mutandis, Eckhart fa un po' lo stesso con la Bibbia e in particolare con quei passi della scrittura che possono dare più problema, E ovviamente ce ne sono tanti, tanti, tantissimi, perché non è che il medievale fosse di per se stesso credulone e sciocco, insomma, non lo era affatto, non lo era affatto. E quindi si chiedevano, quanto noi, come è possibile questo testo, ripeto, questo testo che per loro, per Maestro Eckhart, è parola di Dio, bene, questo testo possa essere veritiero. E nella difficoltà di dare un senso, come dire, razionalmente, sia sotto il profilo della scienza della natura, sia sotto il profilo morale, spirituale, rispondeva Eckhart con una serie di possibilità, bene? Una serie di possibilità, attingendo, aggiungo, alle autorità che lui conosceva e che erano tante, sono le autoritates, innanzitutto cristiane del suo tempo, del Medioevo, a cominciare, come dicevo prima, da Tommaso d'Aquino, alla cosiddetta catena aurea, cioè al completo commentario della Bibbia di cui, ad opera di vari autori, i medievali disponevano, ma anche risalendo molto indietro, per esempio a quanto un uomo come Meister Eckhart conosceva dei padri greci, dei grandi teologi della chiesa greca, della chiesa di lingua greca. Non conosceva tantissimo, perché siamo ancora nel 300, quindi la grande riscoperta degli antichi è posteriore, però magari attraverso interposta persona, la persona interposta è quasi sempre Sant'Agostino, attraverso Agostino Eckhart ricorre appunto anche a questi antichi greci di cui ha letto magari pochissimo, quasi niente, però ricorre agli ebrei. È stato notato più volte, una delle autorità più citate, più utilizzate, è Maimonide. Maimonide, lo studioso ebreo che in particolare per il suo libro, loro lo chiamavano Dux Neutrorum, la guida dei perplessi, o come si traduce noi, eccetera, viene ampiamente, veramente spesso saccheggiato da Eckhart. Peraltro Maimonide è uomo che ricorre a che cosa? Ricorre, e qui veniamo al punto, veramente a uno dei punti, se non al punto, diciamo, essenziale di questa mia conversazione, ricorre alla grande filosofia classica. Alla grande filosofia classica, a Aristotele in particolare. Aristotele. Perché Meister Eckhart è convinto che non ci possa assolutamente essere contrasto tra la retta ragione e la Bibbia. Questo è, come dire, uno dei punti qualificanti. Lo dice con chiarezza sempre nel prologo al suo commento al Vangelo di Giovanni. Scrive così: la Sacra Scrittura si interpreta in modo pertinente già che con essa si accorda ciò che i filosofi hanno scritto sulla natura delle cose e le loro proprietà, tanto più che deriva da una medesima fonte e radice di verità tutto quello che è vero, sia nell'essere che nella conoscenza, nella scrittura e nella natura. Mosè, Cristo e il filosofo, con la F maiuscola, insegnano dunque la stessa cosa, che differisce soltanto nel modo, cioè in quanto credibile dimostrabile o verisimile, verità. Il filosofo con la F maiuscola è Aristotele, perché per i medievali, come sapete, era il maestro di coloro che sanno, eccetera. Allora, Mosè, ovvero l'Antico Testamento, Mosè a cui anche Meister Eckhart attribuisce la redazione del Pentateuco, o comunque insomma, Mosè vuol dire la legge ebraica, il filosofo Aristotele e Cristo insegnano la stessa cosa. Differiscono nei modi, ovviamente, però è la stessa cosa. Da una sola fonte e radice di verità deriva tutto ciò che è vero. Se ne deduce, Eckhart ne deduce ovviamente, una conseguenza importantissima, che è quella che noi dobbiamo interpretare la scrittura sempre alla luce della ragione, con l'aiuto determinante della ragione. Se perdiamo questo aiuto, se lasciamo questo aiuto, e lo dice citando il suo maestro più amato e più citato, cioè ancora una volta Agostino, se perdiamo lo strumento della ragione, senza lo strumento della ragione, la Bibbia nutre solo la superstizione. Nutre solo la superstizione. Perché faccio un passo avanti, ma non vi tratterrò ancora molto. Perché qual è il concetto di verità che sta a cuore a Meister Eckhart? Non sono le verità, ad esempio le verità, come noi diremo, di scienza della natura, no? Certo, anche queste gli interessano, perché i medievali, come sapete, avevano un concetto assolutamente unitario del sapere, non avevano diviso, come facciamo noi, la fisica dalla filosofia, o perlomeno insomma, abbiamo diviso i mondi del sapere in campi ristretti, determinati, specialisti, eccetera. No, avevano il concetto che dovesse stare tutto insieme. Quindi la natura gli interessa molto, gli interessa molto. E siccome la Bibbia parla spesso anche di natura, va bene, o sembra parlare anche di natura, ecco, il Meister Eckhart fa potentemente intervenire i libri aristotelici per interpretare, per spiegare la Bibbia. Quindi Aristotele giustifica, va bene, le affermazioni bibliche. Ma la verità che sta a cuore a Meister Eckhart non sono le verità, ma è, come dire, veritas ipsa, la verità stessa. E la verità stessa per lui ha queste caratteristiche. La prima è che non c'è libro al mondo che la possa esprimere. No, non esiste libro al mondo, state attenti, neanche la Bibbia, che la possa esprimere. Perché lo dice ancora, state ben attenti, citando il De vera religione di Sant'Agostino, che sì, certo è stato un uomo che ha pensato con il proprio cervello, Meister Eckhart, ma molto spesso le cose sembrano più rivoluzionarie di quanto lo siano, perché anche Agostino insegna, almeno in un suo libro, che da sola la scrittura non porta da nessuna parte, da sola la scrittura, dicevo prima, nutre solo la superstizione. Le scritture non danno luce e non danno verità, perché luce e verità, termini tipici del Vangelo di Giovanni, stanno, per così dire, si comunicano soltanto, come accennava anche prima Celata Ballanti, nel più profondo dell'anima, là dove non entrano né creature, né libri, né parole, né scritture. Visto che tra Dio e l'anima, e la verità, la veritas ipsa è Deus, non liberità, perché tra Dio e l'anima non c'è niente, non c'è nessuna mediazione. Ohne mit, dice sempre nel suo tedesco, o in latino nello stesso modo, sine ulla mediazione. Non c'è nessuna mediazione tra Dio e l'anima, perché sono la stessa cosa. E certamente lì si capisce che, come dire, potesse diventare, non, sì, non solo sospetto, non è solo il fatto di sospetto di eresia, forse non tanto compatibile, non tanto compossibile con una istituzione ecclesiastica, probabilmente soprattutto qual era quella del suo tempo, ma non lo so. Poi per il tempo presente ciascuno risponderà come meglio crede. E quindi il libro, per quanto diciamo divino, per quanto ispirato da Dio, il libro non è mai in grado di, come dire, di essere verità, perché appunto per Meister Eckhart la verità non è che si conosca. La verità la si è. Lo dice molte volte nei suoi bellissimi distici il pellegrino cherubico di Silesio, che è veramente in questo un versificatore, il versificatore di Meister Eckhart. Dio è un unico uno, ein, einig, ein, che sono termini eckhartiani, un unico uno, tre volte, e non c'è niente da conoscere, perché il terreno della conoscenza rimanda all'alterità, e se rimanda all'alterità sei già fuori, amico mio. Non meraviglia che questi commenti, che da questi commenti biblici, state attenti, ma mi avvio alla conclusione, questi commenti biblici, che indubbiamente sono, come dire, la parte più scolastica del pensiero di Eckhart, e nella loro grande, nella grande maggioranza delle loro pagine non abbiano, come dire, niente di particolarmente eterodosso, sospetto d'eresia, e però, guarda caso, è da essi che sono state tratte le proposizioni considerate eretiche dalla bolla papale. Difatti gli studiosi sapevano che ci dovevano essere questi testi, perché la bolla papale è sempre stata nota, no? Le bolle papali sono state sempre note, e si trovavano queste proposizioni che non si sapeva da dove, e poi abbiamo visto da dove. Sono tutte prese dagli scritti latini, cioè dagli scritti ufficiali, mentre la predicazione in volgare poteva avere un carattere, come dire, più dubbio, perché, non so, magari ripresa da auditori, eccetera, eccetera. Ma questi erano i testi ufficiali, i testi per l'università, e quindi lì poi erano nel chiaro latino, vero? Non erano nel volgare tedesco, che allora non era neanche, nel volgare tedesco di Eckhart, che non era neanche una lingua, come dire, costituita letterariamente, no? Quindi suscettibile di diverse interpretazioni da parte di una chiesa che parlava latino, cioè, no, questi sono latino, quindi non si discute, eh? Questo mi dice Dante, il tuo parlare qui è latino vuol dire chiaro, ora magari non è più così ai nostri giorni, ma allora sono tratti da lì, e da lì ci sono appunto alcune di queste proposizioni che sono quelle che costituiscono poi il dettato più significativo, io credo, comunque certamente più, almeno la prima sconvolgente, del pensiero del Meister Eckhart. Ad esempio, ne dico due soltanto, nel commento alla Genesi e in parallelo il commento al prologo di Giovanni, da soli fanno quasi metà delle interpretazioni eckhartiane della Bibbia, perché sono due testi assolutamente cruciali. all'inizio della Genesi c'è la creazione, c'è la creazione. E quindi quel testo che, come direbbe o come avrebbe detto poi Fichte, stabilisce una volta per tutte l'alienazione dell'uomo, perché da una parte c'è Dio e da quell'altra c'è l'uomo e il mondo, no? Il prologo di Giovanni invece, come dire, sembra il contrario, no? È archeo, logos, in principio è il verbo, panta di autuegeneto, tutto è stato fatto nel verbo, eccetera. Quindi non ci meraviglia, non vi deve meravigliare che una potente mente di filosofo come era Meister Eckhart dedichi 100 pagine da una parte e 100 dall'altra, quindi a questo testo, il primo versetto della Genesi, in principio Dio creò il cielo e la terra, e i primi versetti del Vangelo di Giovanni. Benissimo, chiusa la parentesi. Allora, nel commento alla Genesi, che potete trovare qui appunto, approfitto per dire che questo volume che avete qui davanti raggruppa per la prima volta con il testo a fronte latino i commenti biblici di Eckhart che in realtà erano usciti negli anni, no? Non è, come dire, totalmente nuovo. Avevo fatto nel corso di una ventina d'anni, uno alla volta, con diversi editori e solo in italiano, questi commenti biblici. Ora qui ci sono riuniti insieme con latino a fronte, devo dire, insomma, è molto bello almeno. Bene, allora, nel commento alla Genesi ci troviamo che Dio è un ente solo per i peccatori. È una frasetta che non è molto gradita. Che dici? Perché io mi guardo allo specchio e dico, ci sto anch'io, so, e la prima idea che noi abbiamo di Dio è l'essere, Esodo 3,14, no? Io sono, ego sum, mi sum, Dio è l'essere, Dio, ma o ente se preferite, ma Eckhart qui dice che appunto è un ente o essere, infatti l'ho già citato prima. Chiamare Dio ente è come chiamare bianco il nero, è un ente solo per i peccatori, a cominciare da Adamo, vero? Perché il primo peccatore è stato Adamo, questo si sa. E il peccato, non sono i peccati, il peccato non sono i vari peccati, commettere adulterio, dire falsa testimonianza, uccidere, eccetera, dai quali forse posso anche essere esente, insomma, no? No, il peccato è l'amore di se stesso ed è quando tu sei un ente o ti pensi come ente, soprattutto come centro di volizione, che per te Dio diventa un ente. E questo appunto sta nel commento alla Genesi. E l'altro che mi piace sempre citare, perché insomma tra le numerose frasi tra virgolette provocatorie, non era questo il loro senso, non voleva provocare nessuno, ma forse provocano noi, un'altra che vi cito dal commento al Vangelo di Giovanni: chi crede non è figlio di Dio. Quindi la dimensione della fede come credenza, la fede come credenza, che viene considerata nella migliore delle ipotesi, come dire, ingenua, preparatoria. Difatti poi altre volte lo dice, non ti devi preoccupare, insomma, se per te è solo così, perché insomma, alcune cose sono più difficili. Però non ti illudere, vero? Non ti illudere, insomma, che la credenza faccia di te figlio di Dio, un figlio di Dio. Perché se il figlio non si genera in te stesso, quello per te, quel Dio ente che sussiste per te, non è Gott, ma Abgott. che è un gioco di parole tedesco molto bello, noi in italiano lo possiamo fare perché suona più cattivo, suona offensivo, perché in italiano sono costretti a dire non è un dio ma un idolo. Allora nessuno di noi vuol sentirsi chiamare idolatra, vero? Per esempio gli ebrei, se io li dico idolatri, li sparano. Musulmani, peggio è mai, forse anche cristiani. La traduzione idolo non. Però sono costretto a questo. Il tedesco può giocare con questo app, via. Non Gott, ma app Gott. Però quello per te è un idolo. Ecco, allora avviandomi davvero alla conclusione. È chiaro, come alludeva appunto poc'anzi anche Celata Ballanti introducendo questa mia conversazione, che pensare che la verità non si può esprimere, non si può scrivere, che mi vengono in mente qui i paradossi di Sebastian Frank, no? Che riprendono anch'essi tanto di materiale eccartiano. La scrittura è solo un impiastro, un plastrum per il cuore umano, ma lo spirito e la vita non ammettono di essere scritti, per un verso. E insieme questo concetto di abditum mentis, di fondo dell'anima, di sinderesi, lo possiamo dire in vari modi, cioè della realtà più profonda dell'essere umano, dell'anima umana, che non è determinata nel come e nel dove, non sopporta nessuna determinazione. Anche Eckhart, per esprimerla, ricorre a un linguaggio metaforico, come spesso deve fare il mistico di fronte appunto alla difficoltà dell'utilizzazione del linguaggio normale, che Dio stesso, se ci vuole entrare, deve spogliarsi di tutte le sue caratteristiche, no? Un più profondo essere dell'anima umana, in cui non sta nessuna determinazione, non entra niente che sia, come dire, esterno, ivi compreso libri, scritture e quant'altro. E questo ovviamente costituisce un problema per eccellenza nel discorso che facevamo del rapporto tra l'interpretazione di una scrittura pensata come parola di Dio e l'esperienza, come dire, di una verità che deve generarsi e deve essere nel tuo interno e dall'esterno non può provenire in alcun modo. Io non ho qui, come dire, la soluzione pronta, disponibile da fornirvi. Sono convinto però, e con questo chiudo, che sia vero quello che Meister Eckhart scrive in questi commenti, cioè che il senso più profondo della scrittura sia quando, come dire, dal profondo di te stesso, che è l'unico luogo, o il luogo per eccellenza, ma lui pensa all'unico, in cui si può dare verità alla scrittura, quando dal profondo di te stesso tu riesci a diventare tu stesso scrittura. Grazie.